Il presidente Scalfaro, che notoriamente è un uomo sopra le parti, perché è stato iscritto alla Democrazia Cristiana a non meno di 45 anni, ha spiegato come doveva essere. Il ministro Conso, che come tutti sanno è affatto indipendente dal corrotto sistema dei partiti, perché è stato soltanto candidato insieme alla DC e del PDS alla presidenza della Repubblica, ha provveduto a stendere l'atto. Il Consiglio dei Ministri, che finalmente purificato da inquisiti e sospetti vari è un organo la cui moralità e dedizione al bene comune fa impallidire il ricordo del Comitato di Salute Pubblica di Robespierriana memoria, ha approvato dopo lunga e sofferta discussione. E così abbiamo, o avremo tra un paio di giorni, la bramata soluzione politica a quello scandalo delle tangenti che tanto danno ha procurato al nostro onesto paese. La soluzione politica di cui tutti oggi parlano, facendo finta con un'unica sfrontatezza che si articoli sui pilastri scalfariani, nel senso di Scalfaro, non di Scalfari, del pentimento del reo, del suo allontanamento dalle cariche pubbliche presenti e future, della restituzione del mal tolto, come se l'unico problema fosse quello di rendere possibili tali procedure mediante ingegnose estensioni delle possibilità di patteggiamento in sede giudiziale, tanto per fare le cose in fretta seguendo l'immortale precetto del compagno Macbeth. Facendo finta, ripetiamo, perché tutti si guardano bene dal dire quello che i cittadini d'altronde sanno benissimo, bastava stare a sentire il microfono aperto di Radio Popolare questa mattina, cioè che la chiave di volta dell'intero pacchetto di provvedimenti è un'altra, è la falsa abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e l'autentica remissione dei reati connessi alla legge relativa. Nel senso che abolendo la legge vigente si abolisce con effetto riadottivo anche il reato di chi l'ha violata, con grande beneficio di chi di quel reato è imputato. Per fare tre nomi a caso, Craxi, La Malfa e Citaristi. E guarda caso, era l'unico reato che gli accusati erano disposti ad ammettere e per cui le apposite commissioni delle Camere concedevano la prescritta autorizzazione a procedere. Ma questo, appunto, voi lo sapete benissimo. Che un provvedimento impopolare vada presentato bene avvolto nella confezione di altre misure magari affatto irrilevanti ma su cui è difficile non essere d'accordo, e chi non è d'accordo che i rei si pentano, che rendano un mal tolto e che siano cassati dall'universo politico, no? È un'antica norma di saggezza governativa. Ogni volta che si propone l'aumento del ticket dei medicinali e la sua estensione ai nullatenenti e ai pensionati sociali, non si manca mai di metterci anche una tassetta sui beni di lusso, non so, un aumento della tassa di circolazione su degli yacht a tre alberi. Sono forme di finzione tanto comune che non ci si bada neanche più. E la finzione, ovviamente, è una delle componenti fondamentali di quella specifica formazione ideologica che è la formazione del consenso dei governati ai governanti. Solo una raccomandazione. Non mostratevi disposti a subire oltre al danno le beffe, lasciando che vi raccontino impuniti che l'ormai abolito reato di violazione della legge del finanziamento dei partiti era un reato di tipo, diciamo così, formale, consistente nel mancato adempimento di certe formalità, appunto, di tipo burocratico-amministrativo, qualcosa come non pagare il bollo della patente o lasciare scadere il passaporto. Questo è quanto sostiene nella sua memoria difensiva il nominato Craxi, quando scrive che i giudici ce l'hanno con lui, sì, anche se è vero che il suo partito godeva di talune risorse aggiuntive tutt'altro che regolari, è letterale. Facendo capire che basterebbe poco perché quelle risorse aggiuntive siano regolarizzate una volta per tutti. Cosa che, a pensarci bene, si basa sul presupposto. Il presupposto che enti, imprese, imprenditori, privati cittadini e quant'altri finanziassero irregolarmente i partiti per proprio diletto e vocazione, per simpatia ideologica, per impulso irresistibile, e che i percipienti trascurassero di scrivere tali entrate a bilancio e a renderne conto nella sede adeguata per faciloneria contabile, per umana distrazione, perché avevano altre cose più importanti a cui pensare. Lo sappiamo tutti, e cerchiamo di non dimenticarlo, che quei soldi erano versati in cambio di qualcosina d'altro, che la violazione della legge del finanziamento dei partiti, in ultima analisi, è una specie di eufemismo giudiziario per nascondere ben più sostanziose ipotesi di concussione e di corruzione. e la corruzione e la concussione rappresentano appunto il cuore del problema e non sono reati che si possono abolire per decreto del ministro console con la benedizione del pio presidente Scalfaro. Per cui bisogna fare quel che si può, tanto il modo di far affluire ai partiti i nostri soldi, magari attraverso qualche compiacente fondazione, lo si troverà sempre con comodo con un Parlamento. Con un Parlamento in cui il leader dell'opposizione è il candido Occhetto, quello che ha avuto il coraggio di smentire che esistano conti svizzeri intestati al PC o al PDS in quanto partito, tra virgolette, cosa di cui eravamo sicuri anche noi, o in cui il portavoce ufficiale dell'onestà intemerata del non conformismo antipartitocratico è il giocondo Pannella, quello che non sapeva che febbraio ha solo 28 giorni, in un Parlamento del genere può succedere di tutto.